A Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buongiorno, questa sarà la serata di Trapattoni e Prandelli, del maestro e l'allievo in una Juventus dei primi anni Ottanta. L'Italia deve vincere, l'Irlanda non ha alcuna intenzione di perdere ancora dopo le prime due partite con altrettante sconfitte. È una vigilia abbastanza tesa, perché si è visto in questo europeo che le tradizioni qualcosa rappresentano. E a proposito di stasera, Trapattoni, da quando è emigrato, non ha mai perso una partita contro l'Italia. È un europeo strano che si sta divertendo a sovvertire le gerarchie, perché sabato sono uscite la Russia e la Polonia, che sembravano già praticamente qualificate. Ieri sera è uscita l'Olanda, che era appesa a un filo, ma è uscita dopo un'altra sconfitta, tre sconfitte su tre per una nazionale come l'Olanda, che era considerata la terza forza alla vigilia dell'europeo. Insomma, è una lezione severissima. Lezione che peraltro ha meritato in pieno dal Portogallo di Cristiano Ronaldo, finalmente di Cristiano Ronaldo, perché fin qui era stato un, non dico un peso, ma quasi un mezzo rimorchio, no? Trascinato dal resto della squadra. Ieri sera invece, come si conviene ai campioni, è stato lui a trascinare il Portogallo alla vittoria, anche se il Portogallo non è solo Ronaldo, è una squadra ricca di giocatori di talento e di sostanza, con un buon mix, che potrebbe, come d'altra parte è accaduto già in qualche ultima edizione, potrebbe andare abbastanza lontano. Il punteggio di ieri sera certamente non rende merito alla differenza che si è vista in campo, di occasioni, di convinzione, di possibilità, anche di condizione atletica. Un'Olanda a zero punti, ripeto, alla vigilia era assolutamente impensabile, e questo è il primo dei pronostici davvero stravolto di questo europeo. 800 24 00 24, come sapete, è il numero per intervenire in diretta. Io partirei proprio dai due personaggi di stasera, da questo maestro e da questo allievo. Allora, il maestro, noblesse oblige, tocca a lui cominciare, e quindi Trapattoni su tante cose, sull'Italia, sul rischio che nell'altra partita spagnoli e croati si guardino in faccia e decidano magari a un certo punto che tanto vale non rischiare. Trapattoni. Io non posso chiedere ad una nazione che è molto grata al lavoro effettuato e qualsiasi tipo di ripiegamento in tale senso. Non abbiamo motivi di aver rivalse né vendicativi né niente, ma però dobbiamo onorare sicuramente la nostra professionalità e credibilità. Come italiano io posso solo sperare, dal momento in cui noi siamo fuori dalla lotta, che poi, essendo stato un allenatore all'estero oramai quasi più di 15 anni, so cosa significa il calcio italiano e che valore ha, e quindi poi mi auguro che, dopo questa parentesi, indipendentemente da ciò che succede, mi auguro che non avvengano altri pastrocchi come sono successi in passato, l'Italia possa far valere il suo valore tecnico. Gli organi competenti presteranno sicuramente molta più attenzione. I dubbi sono sempre rimasti, quindi sarà molto difficile che possa ripetersi la situazione. Trapattoni non crede a un accordo tra Spagna e Croazia. In realtà non ci crede quasi nessuno, anzi a parole non ci crede proprio nessuno. A parole, a disegni, a immagini. Marca è uscito stamane con una strepitosa copertina. Marca è il principale quotidiano sportivo spagnolo ed è uscito con una gigantografia a tutta pagina di Luis Enrique col volto insanguinato, ed era la comitata di Tassotti a Luis Enrique al Mondiale di USA 94, quando Italia e Spagna si incontrarono nei quarti di finale. E la scritta dice: noi non siamo rancorosi, il titolo era decisamente discreto, proprio da un punto di vista giornalistico, ma anche della qualità. Insomma, era divertente, una bella pensata, una bella trovata. Sentiamo Prandelli quando parla di Trapattoni. Per quanto mi riguarda, quando parlo di Giovanni Trapattoni, parlo del mister. Per me sarà sempre il mister, perché l'ho avuto in un periodo particolare, perché avevo 20 anni, perché sono cresciuto con lui, e da un punto di vista umano ha sempre comunque rispettato tutti. Cioè, io ero una squadra di grandi campioni, però anche noi che non giocavamo tanto eravamo considerati da lui qualcosa di importante. La forza sua è che comunque si è messa in discussione sempre, una forza straordinaria, la voglia comunque di non mollare, la voglia di aggiornarsi, la voglia di essere comunque sempre competitivo, ed lo è tuttora. È certo che è paradossale, scrive Daniele, che l'Italia possa essere eliminata con 5 punti mentre la Grecia è passata con 4 e l'Olanda addirittura poteva passare con soli 3 punti. È vero, queste sono le conseguenze dei 3 punti per vittoria. Un tempo non era così, ma d'altra parte è molto giusto premiare la vittoria con questo bonus di un punto, no? rispetto a un tempo, e quindi sì, questi sono i paradossi. L'Inghilterra con il ritorno di Rooney può ritenersi una delle favorite, domanda un ascoltatore. Secondo me no, se Rooney già non fa rimpiangere chi ha giocato al posto suo, e invece magari Rooney sarà poi la stella dell'Europa, ma insomma non mi sembra che l'Inghilterra abbia le potenzialità da arrivare addirittura a vincere il torneo. È una squadra che combattiva, insomma, è una squadra con le sue solite caratteristiche positive, però anche con parecchi limiti tecnici. Insomma, anche nella partita dell'altra sera è riuscita a farsi rimontare dalla Svezia, stava vincendo 1-0, è andata sotto 2-1, poi è stata bravissima a cambiare il corso degli eventi e a ridimontare ancora e a vincere alla fine per 3-2, però insomma non credo che Germania innanzitutto, ma poi Spagna, sempre che stasera non capiti qualcosa di strano, ma la stessa Italia, direi anche la stessa Francia, mi sembrano superiori da un punto di vista tecnico e di organizzazione di gioco. C'è già un ascoltatore in linea da Padova, io gli chiederei un momento di pazienza, sentiamo come va sulle strade. A tempo di sport. Se l'Italia vince 1-0 e la Spagna pareggia 1-1, chi passa? Domanda Andrea da Fermo. Andrea, passano gli altri, passano sia la Spagna che la Croazia, perché a quel punto, se la Spagna pareggia 1-1, vorrebbe dire che tutti i confronti diretti tra le tre squadre a 5 punti si sarebbero conclusi 1-1. A quel punto scatta, solo a quel punto scatta la differenza reti, che è più 4, scatterebbe la differenza reti, che sarebbe, lei ha parlato di 1-0 all'Italia, che sarebbe più 4 per la Spagna, più 2 per la Croazia, che ha vinto 3-1 con l'Irlanda, e più 1 per l'Italia, che avrebbe vinto solo 1-0. In ogni caso, a puro titolo di esorcismo, mi segnala Franco Piantanida che il 18 giugno non è esattamente un giorno straordinariamente favorevole ai colori sociali, ai colori nazionali, perché a USA 94 proprio l'Irlanda batte 1-0 l'Italia il 18 giugno all'esordio del mondiale americano al Giant Stadium. Io c'ero, e di quella partita quello che non posso dimenticare sono i 40 fischiagradi che resero quella partita una tortura, innanzitutto per chi la giocò, ma anche per chi vi assistette. Non è finita lì, perché a proposito di trapattoni, il 18 giugno 2002, Corea del Sud Italia 2-1, la partita il giorno di Byron Moreno, quindi insomma, speriamo che stasera vada in maniera un po' diversa. Oscar ha chiamato da Padova, buongiorno. Buongiorno Garanzini, niente, io volevo dire due cose di Balotelli. Allora, che sia un campione ho i miei dubbi, ma un campione in questo senso, ha dei colpi diciamo bellissimi, favolosi, però uno che si comporta come si comporta lui, anche con l'Italia, e quel famoso diciamo stop che ha fatto col Manchester e dopo ha dato di tacco, è uno che di testa non sta bene. Io non voglio offendere nessuno, e non voglio offendere nessuno. Quello che mi dà fastidio è che i max media lo portano su come fosse il Dio in terra. Sarà un bravo giocatore, però è un giocatore che dovrebbero guardare dentro un attimo cosa c'ha sulla testa. Mi scusi, non voglio offendere nessuno, però mi prendo le mie responsabilità. Non so se mi sono spiegato, Garanzini. Abbastanza, Oscar, grazie. Comunque si metta sereno che stasera Balotelli non gioca, giocano Di Natale e Cassano. Il primo cambio in attacco probabile è Giovinco, ma non è da escludere nemmeno che possa toccare a Borini. Credo proprio che Balotelli stia stasera, e non è detto che ci si fermi a stasera, che Balotelli sia fuori gioco. Da Verona ha chiamato Stefano, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. E intanto volevo ringraziarla per tenermi sempre in compagnia, visto che sono sempre la guida del camion. Mi raccomando, però, di non distrarsi troppo. Cioè, io gliela faccio volentieri compagnia, ma lei stia concentrato sulla strada. Ho parcheggiato. Bravo. Niente, io volevo dire solo una cosa. Volevo dire il pronostico di questa sera. Allora, a mio avviso, l'Italia vince 1-0. Gli dico anche gol di testa di Chiellini. E novità su novità, secondo me questa sera la Spagna esce. Quindi qualificati Italia-Croazia. Molto bene Stefano, la pregherei in questo caso, se andasse a questa maniera, domani di riparcheggiare il camion più o meno in questa fascia oraria. Noi siamo a disposizione di Stefano per inchinarci alle sue qualità divinatorie. Grazie. Pado, oggi è la beneficiata del Veneto. Manuel da Padova, buongiorno. Buongiorno a tutti. Niente, io volevo fare solo una considerazione velocissima, essendo anch'io allenatore delle squadre giovanili del mio paese. Volevo capire perché Germania, la stessa Olanda, anche se è uscita, per carità, l'Inghilterra, la Francia, si presentano con squadre giovanissime, ricche di talentini, anche insomma molto dinamici, giocatori veloci, di fascia età molto bassa, e invece i nostri gioiellini, Destro, Insigne, lo stesso Immobile, Verratti e Sharawi non giocano o restano a casa. Questi qua, se fossero tedeschi, inglesi o olandesi, secondo me sarebbero già in nazionale, credo io. Poi, sì, ma la risposta è abbastanza facile però, Manuel, è che in quelle nazioni i club si fidano dei giovani, investono sui giovani, li lanciano e questi possono fare esperienze ad alto livello, esperienze internazionali. Lei sta parlando invece dei giocatori che in Italia, se gli va tutto bene, giocano in Serie B. O sono rincalzi o alternative in squadre di Serie A. Questa è una vecchia storia e questo secondo me non può essere imputato al commissario tecnico o alla nazionale, va imputato ai club che i giovani li usano e si fidano e osano sui giovani proprio con il contagocce. Se non hai esperienza internazionale non puoi pretendere che ti facciano il salto in partite di questa, non solo contro avversari così forti e così esperti, ma soprattutto in partite che comportano queste tensioni di vigilia. Un altro ascoltatore aggiunge un Italia-Belgio 0-0 il 18 giugno dell'80, la semifinale dell'europeo italiano, Italia-Belgio 0-0 e giorno dell'esordio Altobelli, precisa perché già che c'è questo amico in ascolto aggiunge anche quest'altro dettaglio ed è un'altra, indubbiamente un'altra data negativa. Speriamo, ripeto, che stasera vada diversamente. Qualcuno ha attribuito a Marco Tardelli, vice allenatore dell'Irlanda e quindi vice dei Trapattoni, ha attribuito propositi di esultanza nel caso in cui l'Irlanda dovesse fa risultato contro l'Italia. Tardelli non si è riconosciuto in quelle frasi e sentirei questa sua, come dire, messa a punto. Dobbiamo cercare di vincere questa partita assolutamente, perché sarebbe una bella cosa per il morale dei giocatori. Sono giocatori che da 24 anni non partecipavano a un campionato europeo, di conseguenza si sono anche un pochino impauriti probabilmente. Sarò felice se vincerò questa partita, non esulterò, come ha detto un giornalista, come ha scritto un giornale, ha detto se vinco esulto, no, non è così, io ho solo detto certamente mi fa piacere vincere questa partita, però non possiamo non giocarla come sempre, non ci sarà sicuramente un biscotto come si dice. Io credo che dipende dall'Italia se può passare o meno, è tutto lì il discorso. A proposito di Luis Enrique, ho detto che oggi è finito sulla copertina di Marca nella versione insanguinata di 18 anni fa. E Luis Enrique ha twittato, lo ha appena fatto, mi informa un'agenzia, dicendo che tiferà ovviamente per la Spagna e anche per l'Italia e che saranno queste due squadre a passare. Marco ha chiamato da Mantova, buongiorno. Beh, io volevo parlare soprattutto del fenomeno Balotelli, nel senso che in effetti in questi 15 giorni ho sentito parlare per l'80% di lui e non della nazionale e di tutti gli altri. È un giocatore tra l'altro che, a parte che è giovanissimo, non ha nessuna esperienza internazionale, ma di gol che io sappia ne ha fatti uno o due. Cioè, e quindi mi sembra che si stia perdendo tantissimo tempo, si discuta tantissimo su questo giocatore, mentre invece la verità è che non ha mai dato niente di pratico, di consistenza. una squadra, ecco. Fa molto effetto a livello fisico per questi beni. Ci sono dei problemi di linea, Marco, ma il concetto è abbastanza chiaro. Non può dire che Balotelli, cioè è tutto vero quello che lei dice, non è vero che lo spazio dedicato a Balotelli sia stato l'80%, questo non è vero. L'altra cosa non vera è che Balotelli non abbia esperienza internazionale, e infatti Prandelli ha puntato su di lui proprio per quello, perché tratta questi tanti giovani di talento o di potenziale talento di cui il calcio italiano dispone, uno certamente ha già una discreta quantità di esperienza internazionale ed è Balotelli. Proprio perché gioca in una squadra che ha vinto il campionato, ha vinto la Premier League, ci giocava già lo scorso anno, nell'Inter a sua volta, pur da giovanissimo, ha fatto esperienze di coppe e quindi l'esperienza l'avrebbe. I problemi di Balotelli sono altri, come è noto, non sono quelli della insomma, esperienza internazionale, che se ancora all'inizio di carriera, per carità, però ce n'è già una discreta quantità che per esempio tutti i talenti del Pescara non possono avere. Romeo, provincia di Como, buongiorno. Buongiorno, senta, fino a qualche giorno fa il cosiddetto biscotto in Italia era considerato lecito, anzi quasi obbligatorio, fra due squadre a cui faceva comodo il pari, adesso invece diventa antisportivo eccetera eccetera, non è un po' ipocrita? No, non è ipocrita, Romeo, no, non credo, anche perché non stiamo parlando delle miserabili vicende dei nostri campionati, soprattutto dei campionati minori. Cioè, ho sott'occhio tutte le sentenze di stamane sulla prima tranche di calcio scommesse, penalizzazioni per società e squalifiche per giocatori. Proprio perché questo è calcio a livello, in questo caso europeo, ma lo stesso discorso vale per i mondiali. Si parte dal presupposto che sia un calcio pulito, che sia un calcio che non prevede combin. Ora, anche se svedesi e danesi hanno sempre negato che quel 2-2 che eliminò l'Italia nel 2004, hanno sempre negato che fosse stato combinato, bastava guardare le immagini, oltre che seguire la dinamica del risultato, bastava guardare le immagini e magari uno si rendeva conto. Dopodiché è sempre molto difficile valutare e capire se due squadre si accordano non in maniera, come dire, non prima, ma durante la partita, per evitare a un certo punto di fare il morto, decidono che vanno bene due feriti. E questo può, citando il maître à penser Buffon, questa è una cosa che può accadere anche stasera, ma può accadere sempre. In uno sport che contempla il pareggio, questo può accadere sempre e c'è da augurarsi che non accada stasera, tutto qua. Giuseppe Milano, buongiorno. Buongiorno signor Caranzini, volevo chiederle, io ho sentito il suo commento seguendo la trasmissione sul caso che l'Italia vinca 1-0 e la Spagna e la Croazia pareggino 1-1, ma in questo caso non è il ranking UEFA che dovrebbe contare? No, scusi, abbia pazienza, se sono 4 giorni che insomma, si rischia l'orchite su questi numeri e queste combinazioni. Il ranking UEFA scatta dopo. L'eventuale ranking UEFA, che è una delle peggiori sciocchezze di cui si sia sentito parlare nei secoli, scatta in una fase successiva ancora, perché in questo caso c'è un parametro precedente da campo che è sufficiente, e cioè quale? Se le tre squadre interessate a pari punti, tra le quali scatta la classifica avulsa, se tra loro hanno realizzato lo stesso punteggio, e questa sarebbe la casistica, cioè quella dell'1-1 anche tra Spagna e Croazia, a quel punto scatta prima di quell'altro parametro, scatta giustamente la differenza a reti. Croazia più 2, Spagna più 4, Italia, lei ha detto 1-0, e quindi Italia più 1 in questo caso. Italia che fa 2-0 è diverso, Italia che fa 3-0 manda a casa in questo caso la Croazia. Avevo dimenticato di firmare il messaggio del non biscotto, Matteo Pescara, vabbè Matteo non è gravissimo, facciamo questo intervallo per i mercati. A tempo di sport. Torniamo in onda. Effettivamente il fatto che oggi sia il decennale di Byron Moreno questa non ci avevo fatto caso, questa è abbastanza inquietante. Volete essere ancora più inquieti? Allora, le due nazioni in cui quest'anno ci sono stati due biscotti conclamati, veri, sono la Croazia e la Spagna. perché è successo in Coppa, ovviamente, è successo in ambito di club. Comunque, Dinamo Zagabria Lione 1-7 in Champions League, con i croati già eliminati, i francesi qualificati agli ottavi, è stato oggettivamente uno scandalo. E un identico scandalo è stato all'ultima giornata, che qui stiamo parlando di Serie B spagnola, che Celta Vigo e Cordoba all'ultima giornata, insomma, abbiano fatto uno di quei tortoni da fare invidia a quelli nostrani, perché a un certo, gli statistici hanno contato 1591 passaggi, no, con cui farcire questo 0-0, vuol dire altro che titi che ti tocca del Barcellona, no? Che comunque più o meno è volto a fare gol, no? Questo era volto soltanto proprio a non muoversi da lì, ciascuno dalla propria metà campo. Sebastiano, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno Garanzini, buongiorno. Io lo chiamavo solo per drammatizzare un po' questa giornata, perché adesso tutti parlano di biscotti. Ma di non torte. C'è niente di drammatico, io le giuro che perlomeno qui la stiamo vivendo con grande serenità. No, ma anch'io, guardi, tra l'altro sono tifoso di una squadra di Serie C2, quindi a questo punto non mi considero neanche un commissario tecnico come la maggior parte degli italiani. Io volevo solo un suo parere, tra l'altro mi sono collegato tardi, quindi non so se ne avete già parlato, riguardo al commento che ha fatto Trapattoni su quello che ha detto Robbie King, che le ha mandate a dire, penso, in modo poco elegante, ma molto significativo a questo punto. Sì, perché c'è questo... Ma non è Robbie Keane, è Roy Keane, Roy Keane, che è una vecchia gloria del Manchester United, che è un irlandese celebre, è stato un grande giocatore, potrebbe essere stato il Tardelli di Irlanda, se vogliamo, no? Più o meno. E che da giorni sta punzecchiando Trapattoni per ragioni tecniche, tattiche, eccetera, eccetera. Allora, Trap 1, 2, 3, alla quarta ha detto: Roy Keane è stato indubbiamente un grande giocatore, ma come allenatore mi risulta, ha detto ieri, ovviamente in conferenza stampa e ovviamente facendo, scioccando per l'ennesima volta la sua traduttrice, ha detto: in realtà però da allenatore non ha mai vinto un, questo celebre termine nostrano, no, di 5 lettere con una doppia Z ad un certo punto. E dato che non c'è stato bisogno di tradurre, perché insomma ormai il linguaggio è discretamente internazionale, allora lei dice che non è stato elegantissimo. Sì, è vero, però è anche vero che insomma, pur sempre tra uomini di sport si stava parlando, no? O dintorni. Strano che nessuno parli o voglia soffermarsi sull'Olanda. Sul fatto che, non so, qualcuno avrà visto la partita ieri sera, qualcuno avrà visto, che è molto reputato questo CT olandese, Van Marwijk, come si chiama. Io dico che uno che mette in campo una squadra come quella che ha messo questo qua ieri sera, ripassa un attimo la Coverciano, rifà l'esame del patentino come se t'avessero beccato col tasso alcolemico un po' altino, rifai l'esame per la patente e poi forse te la ridanno, perché giocare insieme contemporaneamente Huntelaar, Van Persie, Snyder, Robben, Van der Vaart e a un certo punto aggiungere Afellay, ma io dico che se ti ritirano la patente non c'è niente di così eccessivo, non è un provvedimento repressivo. Roberto Alessandria, buongiorno. Sì, buon pomeriggio. Dica. Come il mio precedente ascoltatore, vorrei che non ne aveste già parlato, quindi magari nel caso uso per la redditività. Sono 3-4 giorni che sento parlare solo ed esclusivamente di biscotto. Anche forse il presidente Monti ha pensato bene di parlarne tra un decreto legge e l'altro. No, guardi, non, cerchiamo di non confondere tra le persone serie. Cioè, noi con la Croazia abbiamo avuto 6 palle gol, facciamo 3 gol, ci può stare l'errore in difesa, vinciamo 3-1, finito il discorso. Certo. Basta, finito, basta. Dove sta il problema del biscotto? No, c'è perché i 3 gol non li abbiamo fatti e la squadra invece è calata nel secondo tempo. Poi non sarà colpa del preparatore atletico Prandelli, intendo Nicolò Prandelli, perché come forse saprete uno dei due preparatori atletici è figlio del CT, ma insomma in ogni caso rimane il fatto che l'Italia ha avuto una costante purtroppo nelle due prime partite, e la costante, una è che ha giocato un buon calcio, a misura d'avversario nella prima partita e a misura propria nella seconda. Ha giocato un buon calcio, ma in entrambe le occasioni è calata abbastanza notevolmente nel secondo tempo. Con la Spagna è durata 1 ora e un quarto circa, e con la Croazia è durata anche meno. Quindi questo è stato il problema vero. Tommaso da Torino segnala che in casa di Croazia-Spagna 1-1 e Italia-Irlanda 3-1 vale il ranking UEFA favorevole all'Italia, e questo è vero, cioè se ci saranno due gol di scarto per l'Italia e Croazia-Spagna finirà 1-1 e non 2-2, perché il 2-2 arrivederci e grazie, vale a quel punto il ranking UEFA, prima vale la differenza reti. Massimo, provincia di Imperia, buongiorno. Buongiorno Garantini, senta, a proposito di questo, sarai che io probabilmente non sono molto pratico di queste classifiche avulse e tutte queste cose che vengono poi dietro i vari punteggi sul campo, ma anche in caso di 2-2 tra la Spagna e la Croazia, se noi battessimo l'Irlanda per 3-0 o più... Ma non ci credo, Massimo, ma davvero, cioè lei non è molto pratico, però nel dubbio chiama cosa è... Allora, sono soltanto 6 mesi circa che io credevo che l'avessero spiegato e l'avessimo a nostra volta spiegato qua chiaro, però se questo è il divertimento di parlare di calcio, fantastico, andiamo avanti così. Conta soltanto in caso di arrivo di 3 squadre a pari punti in classifica, in questo caso 5, conta soltanto la classifica avulsa tra quelle 3 squadre e non c'entra nulla il punteggio ottenuto contro la squadra, 4ª squadra materasso del girone. Quindi 1-1 Italia-Spagna, 1-1 Italia-Croazia, 2-2 Croazia-Spagna, passano Croazia e Spagna. Ci dica chi sono i 2 attaccanti, scrive invece un ascoltatore, perché questo è essenziale. Io metterei Borini e Di Natale, gli unici che puntano alla porta e tirano senza pensarci 2 volte. Ma insomma, non so se adesso a questo punto della Borini. Io credo che Prandelli, se proprio deve fare un'idea a uno che finora non è mai stato nominato come papabile, io penso che lo stia facendo a Diamanti, semmai. Penso che abbia questa tentazione, cioè che parta, ammesso che poi davvero parta Thiago Motta da quarto centrocampista, che ancora non è detto. Io penso che a un certo punto della partita, a seconda di come si mette, potrebbe essere Diamanti a rilevarlo. Matteo Padova, buongiorno. Buongiorno dottor Granzini. Niente, io volevo fare una dire la mia su per quanto riguarda la tattica utilizzata da Prandelli durante la partita della Croazia, e secondo me spero che non si ripeta in altre partite. Cioè, io vedo che dopo il primo tempo, dopo 11 tiri fatti e 2 subiti, siamo andati a riposo con 1-0, e la lettura per me è abbastanza semplice. Ho visto una squadra che ha ritirato il baricentro di 10-15 metri, naturalmente anche la Croazia ha avuto i suoi meriti, però secondo me abbiamo avuto paura. Termino qua il mio intervento e volevo... Sì, un po' di paura, un po' di paura è subentrata, un po' di calcolo, un po' di eccesso, se non paura, eccesso di prudenza, ma figlio anche proprio di un caro atletico. È chiaro che loro sullo 0-1 a perdere non ci stavano. C'era un intervallo di mezzo e bisognava mentalmente prepararsi al fatto che la partita sarebbe cambiata e che quindi a tutta quell'iniziativa italiana del primo tempo sarebbe corrisposta da lì in avanti un'iniziativa altrui, ma insomma. C'è un ascoltatore che scrive e non si firma naturalmente: anche l'Italia 82 fu campione del mondo con il biscotto con il Camerun. Vede, queste sono le falsità scritte da Oliviero Bea tanti tanti anni fa, naturalmente mai provate, ma le calunnie, anche quelle più vergognose come queste, negli anni poi scavano la pietra, no? E quindi qualcuno come lei, che certamente non ha informato e documentato, alla fine riesce a credere anche a queste sciocchezze. Franco, provincia di Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno Granzini. Volevo farle una domanda di questo tipo, se è così cortese. Perché io, leggendo un giornale, dai comportamenti della Croazia che ha avuto in precedenza, dall'ultima partita, questi fumogeni, questi cori razzisti, dal giornale leggendo c'era questa frase che potrebbe essere esclusa la Croazia dalle qualificazioni. Adesso mi sembra, come ho letto, che il giudizio traggono il giorno 19. Può essere questa cosa qua? Almeno Platini aveva detto così dopo. Ho capito molto male, Franco. Stiamo parlando di penalità o penalizzazioni per le prossime fasi di qualificazioni alle edizioni degli europei che verranno. Come già è toccata alla Russia, questa punizione eventualmente sub iudice. Si immagini lei se adesso si sta lì due o tre giorni appesi ad aspettare un verdetto sulla base di come si sono comportati i tifosi croati. Notavo che tra l'altro finora sono stati eliminati gente come Ibrahimovic è il capocannoniere della nostra Serie A, Van Persie è il capocannoniere della Premier League, Huntelaar è il capocannoniere della Bundesliga, di gol ne ha segnati pochi oggettivamente tra tutti e sono già tutti quanti a casa. È un europeo che si diverte a far fuori stelle. Vediamo stasera a quali stelle tocca tornarsene a casa. Ultimo intervallo, strade. A tempo di sport. La rubrica di Nicola Filipponi, il 18 giugno, già vi ho detto un paio di date nefaste per il calcio italiano, cioè un paio di 18 giugni da dimenticare. Sentiamo quello di Nicola. Sembra ieri. 18 giugno 1972, la Germania Ovest conquista il primo europeo della sua storia, battendo 3-0 l'Unione Sovietica nella finale di Bruxelles. I tedeschi esercitano un dominio evidente su tutto il campo e per tutta la gara, agevolato dalle prestazioni impeccabili di Franz Beckenbauer in difesa, Günther Netzer, probabilmente il miglior giocatore dell'europeo a centrocampo, e Gerd Müller, autore del primo e del terzo gol, in attacco. La rete del 2-0 porta invece la firma del mediano Herbert Wimmer. Si apre così una fase di supremazia del calcio della Germania Ovest che culminerà 2 anni dopo nella conquista del mondiale giocato in casa. Beh, anche questa Germania, se non altro per la bassa età media, potrebbe in fondo aprire un ciclo, poi adesso deve ancora andare avanti e vincere, ma insomma qualcuno ricorderà che la Germania era stata a lunghi tratti la squadra più divertente, più brillante che si è vista al mondiale sudafricano, poi saltò in semifinale, ma insomma già allora si intravide che questa Germania sarebbe poi durata nel tempo, no? Che si era ricreata un'altra Germania da seguire con attenzione, e mi pare che le previsioni di allora si stiano avverando. È l'unica squadra finora che ha concluso a punteggio pieno. Giovedì gioca il primo dei quarti di finale contro la Grecia. Allora, al di là delle suggestioni politico-economiche di questo periodo, insomma, Germania-Grecia in realtà è una non partita sulla carta, per come è andata fin qua. Poi Greci la pelle la venderà carissima, intendiamoci, anche sul campo, non solo altrove, quindi stiamo a vedere, ma la Germania a questo punto è favorita. Alessandro Crema, buongiorno. Volevo dire che secondo me il grandissimo problema dell'Italia, scesa in campo in queste due partite, è stato quello di non sostituire i due esterni di centrocampo, Giaccherini e Maggio, proprio perché il ruolo richiede grandissimo dinamismo sulle fasce e secondo me il fatto di non averli sostituiti ha creato un gravissimo calo fisico della squadra. Cosa ne pensa? Penso che sì, penso che io non sarei così severo per quanto riguarda la prima partita, perché non si può pensare di giocare contro la Spagna attuale come si gioca contro un'altra nazionale. Qualche contromisura va presa e secondo me furono prese quel giorno delle contromisure valide, nel senso che quel centrocampo a 5 con De Rossi dietro e quel centrocampo a 5 che era in grado di soffrire ma anche di palleggiare le rare volte che riusciva a riconquistare palla aveva un senso. Molto meno l'ha avuto secondo me nella partita con la Croazia, perché oltretutto questi giocatori visto che li schieri in quel ruolo e con quei compiti o sono in grado di farti abbastanza brillantemente entrambe le fasi, e cioè quella difensiva ma anche quella offensiva, o se no tanto vale giocare con degli specialisti del ruolo, insomma, che è un po' la scelta, tornando indietro sui suoi passi, che Prandelli fa stasera, se davvero schiererà come pare, Abate da una parte e Balzaretti dall'altra. Poi non stiamo parlando né di Dialma né di Nilton Santos, quindi non è che ci dobbiamo aspettare la fine del mondo da questi due giocatori, però perlomeno dovrebbero essere un pochino più calati nella parte che serve, soprattutto a sinistra, io credo. Eugenio ha chiamato la Varese, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Garanzini. Niente, io chiamavo semplicemente per fare un grosso augurio alla nostra nazionale nella speranza che questo 18 giugno cambi, insomma, visti i precedenti. E semplicemente perché ho notato, non tanto nella sua trasmissione, ma anche in altre, piuttosto che intorno a me, tra conoscenze varie, questo disfattismo, questo augurio che si fanno tutti di vedere la nostra nazionale tornare a casa. Io sinceramente non riesco a capirne il motivo. E quindi... niente, chiamavo solamente per fare un grosso augurio, in bocca al lupo e speriamo che vada bene. Se poi di là sarà 2-2, pazienza, cosa dobbiamo fare? Questi sono gli uomini che abbiamo, più di tanto non si può fare. Certo Eugenio. E tra l'altro al 2-2, sa chi sta scommettendo sul 2-2? Gli italiani. C'è qua un report dei Monopoli di Stato. Che informano, questo è appena uscito, me l'ha trasmesso Franco Piantanida, non posso non fidarmi, anche se è una notizia, insomma, è abbastanza sorprendente come dato, no? Su 140.000 euro giocati fino ad ora in Italia, che mi sembrano pochi però, forse saranno i monopoli di Stato, non lo so, comunque risulterebbe che su 140.000 euro giocati finora in totale, 76.000 sono stati giocati sul 2-2 tra Croazia e Spagna, ma non può essere questo il volume di scommesse registrato fino ad ora, sarà uno dei bookmaker. Adesso vediamo da qui alla fine di approfondire un tantino. Francesco da Milano domanda notizie su Italia Camero. Beh ragazzi, se dobbiamo tornare indietro se ogni volta che uno scrive una sciocchezza o peggio, come ha scritto quell'ascoltatore di prima, se dobbiamo ogni volta rifare il romanzo, no, di chi cercò di intorbidare quella vittoria, no, cioè, fate affidarvi, no? Se fate affidarvi, io vi dico che quella ricostruzione che qualcuno fece di un accordo tra Italia e Camerun era un falso vergognoso. Se invece non vi fidate della versione di chi invece scrisse che allora ci fu il trucco e l'inganno. Riccardo Ravenna, buongiorno. Senta, io sono polacca, però vivo in Italia da 20 anni. Tifo Polonia e Italia, purtroppo la Polonia è andata come è andata, però per l'Italia io penso che passa l'Italia, perché sinceramente tutti questi sospetti che voi italiani, sempre quando c'è qualcosa, giocate la vostra partita, vi vincete e andate avanti, no, tornate a casa, non è... Sempre, ogni televisione, ogni stazione, certo, di radio, ogni giornale, noi almeno in Polonia siamo usciti, però abbiamo 4 stadi, 9, le strutture sono andate bene, Riccardo, l'economia va bene. Riccardo, no, sono qua con tanto vincerà uno solo alla fine. Sono qua con le mani in alto, mi arrendo perché lei ha ragione dalla prima all'ultima parola. E che ci vuol fare? Noi siamo fatti così. A lei è toccato venire in questo paese e ormai ci ha messi a fuoco bene, insomma, ci ha conosciuti fino in fondo, direi, no? E invece lei è tornato all'essenza, no? di quello che dovrebbero essere il tempo libero, il calcio inteso come tempo libero. Grazie al suo intervento, davvero. Grazie a Matteo Comes in regia, grazie a Franco Piantanida in redazione. In realtà, no, stavo chiudendo un po' prima del previsto, perché c'erano ancora 20 secondi, avevo letto male il tempo. Beh, c'è questa notizia. A proposito di severità, i Glasgow Rangers, non stiamo parlando di una società qualunque, no? I Glasgow Rangers, che sono sull'orlo del fallimento, non sono stati inseriti nel calendario del campionato scozzese. I loro debiti passano ormai 93 milioni di euro e con ogni probabilità, anzi no, ormai non essendo in calendario, sparisce una squadra di quelle dimensioni. Buon pomeriggio, ci risentiamo domani.